ricomincia Iperione. La Russia ha dichiarato guerra alla porta. La sua flotta entra nell'arcipelago. Se i greci insorgono, cacceranno il sultano fin sull'Eufrate. I greci compiranno quanto è il loro dovere. Saranno liberi, sono felice! Io non volevo più vedere il giorno, non si osava tanto. Se tu sei ancora quello d'una volta, vieni! Sospiro l'attimo di rivederci in questa nuova vita. Parve troppo misero per rivelarti adesso. Non potendo schiavo servirlo, tu facesti nulla, e il non fare ti rese insoddisfatto e visionario. Tu non volesti guazzare il fango. Vieni, vieni, bagniamoci nel mare. Troppo amante di pace, troppo celeste. Alla banda è attivo, e a te s'adormono le mani in grembo, fiocchi di neve sulle tue parole. Vane, non voglio aver dormito in vano, il mio sonno ha da tramutarsi in olio se la fiamma lo tocca. Non più voglio starmi a guardare dove sa da agire. Voi che siete si pronti agli estremi, pensate alla nemesi. Chi soffre un male estremo, l'estremo ne si addice. Se pur si addice, tu non vi sei nato. Così pare. Io mi sono indugiato anche troppo. Ma a brandire una spada l'ho appreso! E in quest'ora non fa dopo d'altro! Non nell'aria può vivere la nuova famiglia degli spiriti, la sacra teocrazia del bello deve farsi dentro un libero stato, e questo deve pur trovare un suo posto sulla terra. E questo posto lo conquisteremo. Tu lo conquisterai e ne scorderai il perché. Perdonami. Divina, perché debbo? Perdonami. Tu agisci, io lo sopporto. Vado via, dissi i miei cari, e la vita svanì da tutti i volti. Addio, Dio Tima. Cielo del mio amore, folle, cos'è distacco, divina, se il cielo stellato ci specchia dentro il seno della natura. La fedeltà non è un sogno. Noi ci separiamo per unirci più intimamente, per essere più divinamente concordi con tutto e con noi stessi. Noi si muore per vivere.